gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici, siamo sulle frequenze di Radio Città Fujiko e questa è 42 La Risposta. Oggi avremo con noi in studio Sergio Rossi. Ciao Sergio. Ciao, grazie dell'invito. Perché abbiamo qui Sergio? Beh, innanzitutto ve lo presento. Sergio Rossi è uno scrittore, editor e storico del fumetto. Ha pubblicato diversi romanzi, libri di divulgazione scientifica, come per esempio Che storia, il Big Bang e la nascita dell'universo. Uno degli ultimi è Einstein l'aveva capito, la scoperta delle onde gravitazionali per Feltrinelli. Ed è oggi qui con noi, invece, in veste di sceneggiatore di fumetti, con la sua ultima fatica, Nikola Tesla, edito da Becco Giallo Editore, disegni di Giovanni Scarduelli. Per cui Sergio, una puntata densa oggi tra disegni, creazione di nuovi mondi e scienza. Ti chiederei però innanzitutto di spiegare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici chi era Nikola Tesla. Nikola Tesla è stato uno degli inventori del mondo moderno, come noi lo conosciamo, perché è l'ingegnere che ha costruito la macchina che ha permesso la trasformazione della corrente continua in corrente alternata, cioè quella che usiamo tutti i giorni, e ha permesso l'elettrificazione del mondo. L'Ottocento è il secolo in cui si scopre come domare l'elettricità e il campo magnetico. Una serie di scienziati cui nomi noi utilizziamo tutti i giorni, Volt, Ohm, Siemens, Edison è quello che inventa la lampadina che utilizziamo tutti i giorni, che capisce come trasportare l'elettricità ad enormi distanze, la corrente alternata, senza disperderla, che era fondamentale. Quindi se noi oggi abbiamo l'elettricità in casa, lo dobbiamo a questa persona, Nikola Tesla, a cui poi i fisici hanno intitolato un'unità di misura. Sai Sergio, io ho trovato in questo vostro lavoro tanto equilibrio. Avete in un certo senso appagato alcune curiosità e dall'altra parte però avete dato spazio veramente all'uomo e allo scienziato. Come mai ha preso così tanto piede per Tesla questo mondo così bizzarro, così eclettico? Beh, diciamo, la spiegazione in parte semplice l'ha data John Ford nel film L'uomo che uccise Liberty Valance, quando James Stewart dice: tra la leggenda e la realtà vince sempre la leggenda, perché è più bella e funziona di più. Tesla è stato uno dei tanti scienziati inventori che sono nati tra 800 e 900, come Edison. Lui ha lasciato l'università, aveva una preparazione teorica che arrivava all'800, quando poi cambia tutto nel 900, cioè arriva la meccanica quantistica, la relatività, che lui non studia, nessuna delle due. Però aveva un'enorme inventiva, una creatività tecnica enorme. Infatti lui era un gran costruttore di macchine. Il suo divertimento tutta la sua vita era costruire macchine, inventare macchine e costruire macchine. Ma era veramente un visionario. Quindi lui ha teorizzato e ha cercato di costruire come trasportare l'energia, l'elettricità senza cavi. Il wireless, il wifi che abbiamo oggi. Il telecomando, ha lavorato sulla radio, tanto è vero che lui poi ha avuto un enorme contenzioso con Marconi, che gli ha dovuto riconoscere che aveva utilizzato dei suoi brevetti senza dirglielo. E lui, siccome stava in America e i brevetti aeroindustriali sono una cosa seria, ha vinto la causa. Ci è voluto del tempo, però ha vinto la causa. Quindi era un uomo di un'inventività straordinaria. Purtroppo, mancando la parte teorica che nasceva in quel momento, gli mancavano le basi teoriche per, secondo me, applicare davvero, realizzare le sue invenzioni, che infatti non funzionavano. Cioè, fino a un certo punto hanno funzionato, finché, diciamo, la teoria classica ha retto. Quando invece bisognava entrare nella nuova teoria che si costruiva in quel momento, va anche detto che è stato sfortunato, e lui, non avendola studiata, non poteva applicarla, molto banalmente, e infatti le sue invenzioni non funzionano. E direi di fare una pausa musicale. Ti abbiamo chiesto di pensare ad un artista che ci possa accompagnare per tutta la puntata. Tu a chi avevi pensato? Io ho pensato a David Bowie, perché Bowie interpreta la parte di Tesla in The Prestige, il film di Christopher Nolan, dove lui è questa guest star di questi due maghi che si scontrano, e cioè Tesla fatto da Bowie, che è perfetto per la parte. I know when to go out, I know when to stay in, get things done. torniamo in studio, siamo a 42 La Risposta, oggi nei nostri studi Sergio Rossi per parlare di Nikola Tesla. A proposito di rivalità, dedicate molte pagine al suo rapporto con Edison. Beh, quella è stata centrale nel lanciare la carriera di Tesla. Nel senso, Edison era uno dei più grandi inventori, appunto, anzi è proprio l'uomo americano, l'inventore americano industriale per definizione, cioè uno che ha lasciato la scuola a 10 anni, fatto 1000 lavori, poi ha capito con l'elettricità che si poteva guadagnare e aveva anche lui una creatività enorme, ha inventato il fonografo, ha inventato la lampadina, ha inventato sì, anche parte della pellicola cinematografica, quindi, e sapeva, contrariamente a Tesla, sapeva fare i suoi affari. Infatti lui è uno dei fondatori di quella che diventerà una delle più grandi multinazionali del mondo, la General Electric. Edison era il mito di Tesla. Edison è vero che era americano, ma aveva già una filiale a Parigi, dove Tesla va a lavorare quando lascia la Serbia. Il direttore della filiale capisce che questo è un cavallo di razza, proprio uno fuori dal comune, e lo manda in America da Edison, dove lui lavora 20 ore al giorno. Finché Edison gli dice di risolvere un problema che gli avrebbe dato un premio enorme, lui lo risolve, però Edison non glielo dà, gli dice il famoso umorismo americano. Tesla giustamente si arrabbia e decide di fondare la sua compagnia, però non ha un quattrino, quindi lui lavora 4 anni come muratore finché fonda la sua compagnia e trova società con un altro magnate dell'epoca che è George Westinghouse. Se questi nomi vi sembrano familiari, tipo Westinghouse, è perché sono proprio quelli che i capitalisti che creano le multinazionali che attraversano tutto il Novecento. In quel momento che in America c'è una grossa discussione proprio su come elettrificare l'America, se costruire tante centrali per portare la corrente continua, perché la corrente continua, che è quella che utilizziamo in casa, funziona ma si disperde nei lunghi tragitti e quindi bisogna mettere tante centrali lungo il cammino per fare in modo che ci arrivi questa corrente. O se no Tesla aveva pensato alla corrente alternata, che è quella che cammina sui fili della luce normalmente, che la puoi portare a lunghissima distanza, non si disperde, poi quando arriva in casa noi abbiamo un apparecchietto che la converte in continua, che è l'alternatore di Tesla proprio, che lo cambia. E quindi c'era questa rivalità, chi arrivava primo aveva contratti miliardari per l'epoca, che vuol dire oggi enorme. Inizia quella che si chiama nei giornali la guerra delle correnti, tra Edison da una parte e Tesla, diciamo che era la punta del gruppo Westinghouse. Edison è uno che proprio è un affarista senza scrupoli, lui per dimostrare che la corrente alternata è pericolosa inventa la sedia elettrica, quella che noi vediamo nei film. Quindi c'era la pena di morte, quindi lui friggeva i condannati con la corrente alternata, nel senso che mandava delle scariche talmente grosse di corrente alternata che sarebbe morto chiunque. E infatti lui la testa poi su un elefante. C'è questa elefantessa Topsy che sta a Chicago, che uccide con una botta, penso della proboscide, della zampa, il suo custode. Lo uccide perché il suo custode la maltrattava. Quindi maltratti un elefante oggi, lo maltratti domani, a parte che non è una grande idea sinceramente maltrattare un elefante, perché lui con una zampata, come ha fatto lei, lo ammazza. C'è il problema di far fuori l'elefantessa, perché chi chiami Tarzan, insomma, si propone Tesla. Il filmato è in rete, lo potete vedere, lui la frigge su un enorme cioè su una sedia elettrica, collega le zampe a un generatore. E si vede questo povero animale che il momento prima è in piedi, il momento dopo schianta per terra. E lì il pubblico era in delirio. Cioè, se noi pensiamo che c'erano gli animalisti, tante cose, ma per niente, panem et circenses. Però a quel punto, visto che si stanno dissanguando sia Tesla che Westinghouse e Edison per questa guerra, il governo americano decide, prende la corrente alternata, vince, se volete, Westinghouse. Edison converte poi tutto a corrente alternata senza troppi problemi, rifà un sacco di soldi da questo punto di vista e parte quella che sarà veramente l'elettrificazione del mondo. Questa storia, che in America tra i primi del Novecento è stata famosissima, è diventata anche un film che doveva, con Benedict Cumberbatch, quello di Sherlock, di Patrick Melrose, nei tanti film, doveva fare Tesla. Ha avuto solo un problema questo film, che era prodotto da Harvey Weinstein, e doveva uscire il secondo dopo, sarebbe uscito, che era scattate le manette per Weinstein. Quindi il film non è uscito. C'è un trailer in rete, La guerra delle correnti, si chiama The Current War. Quindi è in attesa. È in attesa. The makeup on his face, lopped his long black hair, his animal grace. The boy in the bright blue jeans jumped up on the stage, laid his daughters sang songs of darkness and disgrace. Torniamo in studio, siamo a 42 La Risposta, oggi nei nostri studi Sergio Rossi per parlare di Nikola Tesla, ragione per cui ci accompagna musicalmente David Bowie, di cui abbiamo appena sentito un celebre brano. Sergio, volevo chiederti come hai lavorato con Giovanni Scarduelli, il disegnatore del graphic novel. Ma ho lavorato molto bene, Giovanni, per Giovanni è stato il primo fumetto che ha disegnato ed è stato bravissimo perché siamo trovati subito sul tipo di storia da raccontare, sul tono anche grafico da adottare e ci siamo proprio divertiti a trovare delle soluzioni grafiche che soddisfacessero entrambi. Infatti poi io più gli lanciavo le idee poi lui le recepiva. Devo dire un serissimo professionista, all'esordio è stato molto bello, molto bravo, molto paziente, anche perché io più andavamo avanti io gli rilanciavo, potremmo fare questo, potremmo aggiungere quest'altro, e lui pazientissimo, sì, e poi lo faceva anche meglio di come l'avevo pensato. I suoi disegni sono davvero, ti dicevo prima di iniziare l'intervista, molto molto belli, equilibrati. Accompagnano la storia di Tesla, diciamo in equilibrio anche con il testo, con la storia. Quanto è cambiato secondo te il rapporto tra le persone e la scienza? Allora, In Italia molto è cambiato, perché l'Italia di base non ha una cultura scientifica. Questo risale ai primi del Novecento, quando vince la linea di Benedetto Croce e Giovanni Gentile su quella di Federico Enriquez, che era un matematico. Quindi la scuola, la cultura italiana, diventa una cultura prettamente umanistica, che relega la scienza a mera tecnica, cioè anche la matematica, che era la più avanzata scienza dell'epoca, a un gioco per bambini. Noi ancora la scontiamo questa cosa, sia dal punto di vista scientifico ma anche dal punto di vista industriale. Nonostante abbiamo delle eccellenze nel campo scientifico, se pensiamo già Fermi all'epoca, ai ragazzi via Panisperna, o adesso Giorgio Parisi, Fabiola Gianotti, Guido Tonelli, quelli che hanno scoperto, Fabiola Gianotti e Guido Tonelli sono quelli che hanno scoperto il bosone di Higgs, per dire. E però non c'è un sistema, cioè noi formiamo molta gente, bravissimi, e poi li prendono gli altri paesi, detta proprio la famosa fuga dei cervelli. Gli scienziati si sono arroccati sulle loro case e manca una divulgazione scientifica. Abbiamo solo la dinastia degli Angela, e lo vediamo tutti i giorni. Quando si parla, per dire, di vaccini o di altre cose, si scatena l'inferno, perché sono tutti laureati all'università di internet o della strada, però non funziona. Io sono anche un po' in disaccordo quando dicono la scienza non è democratica. Non è vero. La scienza è democratica nel senso che ognuno può mettersi giù a studiare, ci sono bravissimi divulgatori anche in Italia, bravissimi giornalisti, ma anche li importiamo dei libri, quindi uno può leggere, studiare quello che vuole. Il problema della scienza, che è il problema della natura, è che fa quello che vuole. Cioè, la velocità della luce, come dice Piero Angela, non è che la decidiamo d'alzata di mano, è quella lì. E i virus ci sono, i microbi, facciamocene una ragione. C'è stata una manifestazione antivaccinista a Bologna, c'era un manifesto Pasteur bugiardo. Lui Pasteur nell'Ottocento è quello che ha inventato la pastorizzazione, è quella che ci permette di bere il latte senza che ci prenda il vibrione del colera o di qualche altra malattia. Cioè, in tutto il mondo, cioè, si usa da 150 anni la pastorizzazione, e siamo tutti vivi grazie a lui Pasteur. E quanto tu stai dicendo, in un certo senso, lo si può anche ravvisare nella produzione scritta relativa alla scienza, più che altro nella produzione narrativa, per esempio nei racconti di fantascienza. E leggevo un articolo tempo fa in cui si ravvisava questa scomparsa di mondi alternativi, di mondi che ci stupiscono, e questa prevalenza invece di storie distopiche, quindi molto vicine a noi, come se noi non avessimo poi un futuro così lungo, o perlomeno come se non potesse cambiare più di tanto. E quindi mi viene un po' da chiederti, la scienza stupisce ancora? La scienza stupisce ancora perché si è fatta, allora, molto più complessa. La scienza del Novecento, per tornare, se volete, a Tesla, è una scienza che ha fatto dei passi avanti che non aveva fatto fino al 1900. Cioè, proprio è un secolo che cambia tutta la scienza, la fisica, la matematica, la medicina. Se voi prendete un trattato di medicina dei primi del Novecento e uno di adesso, ma anche di 50 anni fa, cioè, c'è un abisso sulla conoscenza delle malattie del corpo umano. Basti pensare che il DNA è degli anni 50. La scienza, però, unita alla tecnologia, ha anche portato a un immaginario molto più consapevole rispetto alla fantascienza degli anni 30-40. Quando siamo andati sulla Luna, nel 69, abbiamo capito che era difficile costruire astronavi che andassero alla Star Trek, insomma, a velocità della luce su altri pianeti. Vi è nata una fantascienza in Inghilterra, soprattutto con la rivista New Worlds di James Ballard e Michael Moorcock, che erano di una fantascienza interna, cioè di capire l'universo che era dentro l'animo dell'uomo, utilizzando una strumentazione, un linguaggio che provenisse anche dalla scienza. Quindi sono nate lì le più grosse distopie. C'erano anche già prima, Orwell 1984, ma è in Russia, Noi di Zamyatin, all'inizio del secolo, dopo la rivoluzione russa. oppure Brave New World, il mondo nuovo di Aldous Huxley, e quindi si è rivolta più all'uomo e al suo rapporto con questa natura matrigna, direbbe Leopardi, e soprattutto alla società che si è creata con questa. Ancora adesso, quando è arrivata, per dire, la scoperta delle onde gravitazionali, noi abbiamo capito come si formano gli elementi nell'universo, cioè non è roba da poco, cioè è come se ci avessero aperto una nuova dimensione, un nuovo modo di vedere l'universo, di cui noi conosciamo sì e no il 5%, quindi abbiamo ampio spazio per stupirci. Sergio, ti ringrazio della tua presenza oggi qui, è sempre un piacere ascoltarti, e lanciamo l'ultimo brano conclusivo. David Bowie è l'autore che ci ha accompagnato, hai pensato ad un brano? Beh, potremmo lanciare Heroes, che è sempre un bel brano, c'è anche su Stranger Things, cantato Vero. Però da Peter Gabriel, è sempre bello, insomma. Grazie a voi. Grazie Sergio. Dolphins can swim. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever and ever.